24 mattino. Di nuovo buongiorno, Luca Telese, 24 mattina, il momento delle pagine della rassegna stampa, come mi prendono in giro tanti ascoltatori giocando sulla mia dizione romanofona. Sveglia alle 6 del mattino, che sarà mai? Io per lavoro mi alzo tutte le notti, fermatevi, questo è un record, all'1:45. Le 6 per me è già giorno inoltrato. X. Allora, la storia comincia dalla notizia del giorno: le primarie del Movimento 5 Stelle in tilt perché il sistema russo è andato in bomba. Io sono un elaboratore al 9000. Il mio istruttore mi insegnò anche a cantare una vecchia filastrocca. Cantala per me. Ricordate, oh, bellissimo, il valzer kubrickiano che ci raccontava lo spazio, la tecnologia, la memoria che scompariva progressivamente perché il computer veniva disattivato dalla furia dell'uomo. E allora questo sogno di modernità, che erano le primarie del Movimento 5 Stelle, ora sono andate in tilt. Lo racconto subito, la notizia che è l'apertura per esempio di Repubblica, mentre il Corriere apre sulla pagina la legge elettorale, mentre il Fatto apre sulla legge elettorale, mentre il Messaggero apre sul declino di Roma, mentre la Verità, importantissimo, apre sulla richiesta di rimborso delle pensioni. Repubblica apre sul tilt del blog e diventa la notizia di tanti giornali. Allora partiamo dal Messaggero. Stefania Piras, primaria 5 Stelle. Davide Casaleggio lancia su Facebook una ricerca sul tema dell'intelligenza artificiale applicata al B2B, cioè alla relazione fra le imprese, e sotto compaiono i commenti nervosi degli iscritti al Movimento 5 Stelle. Non riesco a votare, il sito è lentissimo. Oppure, fate votare anche domani, ho sempre partecipato, vi prego. E ancora, a parte tutto, Davide si fa una fatica incredibile a entrare in russo, allungate i tempi, io per esempio è un'ora che cerco di entrare, non si entra. Ieri, racconta Stefania Piras, il Messaggero, ieri la votazione per poter eleggere il candidato premier è andata in tilt, in sovraccarico, al punto che si è deciso, come chiedevano gli utenti, di prolungare il voto fino alle 23 invece che fino alle 19, causa dell'altra affluenza contemporanea di moltissimi utenti. Allora qui è chiaro che questa cosa verrà giocata politicamente, qualcuno per screditare il 5 Stelle, qualcuno per esaltarlo, o è andato in tilt perché c'è tanta democrazia, o è andato in tilt perché la democrazia diretta non funziona. Ovviamente questa è l'idea di Repubblica, è ovvio, primaria 5 Stelle, caos nel voto online, protestano gli iscritti, fronda su Di Maio, sì, perché Repubblica insinua il sospetto che non sia un dato casuale. LK, la sua vignetta, le solite due figurine un po' pop che parlano. Nessun problema, il sistema russo è progettato appositamente per il voto dei 5 Stelle. Dunque, funziona o non funziona, il risultato non cambia. Cattivissima! In toppi, fronda e sondaggi, Mauro Favale e Giovanna Vitale a pagina 3 di Repubblica. Il candidato parte in salita, in crisi le donazioni, meno 30%. Primarie 5 Stelle, nel giorno di Di Maio il sistema va in tilt, troppi contatti. E poi il racconto, Tiziano Tonutti, il diario, Toniutti, io elettore in coda sul web, non ho nemmeno capito se sono riuscito a votare o no. E questi i numeri, 340.000 euro raccolti nel 2017, 469.000 nel 2016, 497.000 nel 2015. E va bene, c'è sicuramente qualcosa che non funziona in questo sistema, capiremo come va a finire. Ma chiudiamo il valzer, entriamo nella rumba, nella lotta politica con I Marisio sul Corriere da Sera. Un commento, lo leggo a pagina 9. Marco I Marisio, un inviato che ha seguito spesso il movimento, e fa una riflessione che ovviamente supera anche solo il problema. Il Movimento 5 Stelle sembra prigioniero di un'eterna adolescenza. Gli statuti non statuti, le regole che non sono regole, andavano bene ai tempi dei meetup, dello spontaneismo predicato Grillo sul canotto sollevato dalla sua gente durante il Vaffa Day di 10 anni fa. Ma è dalle elezioni politiche, dal febbraio del 2013, scrive Imarizio, Corriere della Sera, pagina 9, che il Movimento ormai è la prima formazione politica d'Italia. In questi anni nulla è stato fatto per ripensare la propria identità e la propria struttura. Le regole sono rimaste quelle delle origini, indefinite e generiche a sufficienza per essere interpretate dai due fondatori, soggette a eventuali modifiche, le cui ragioni di principio non sono mai state dichiarate e discusse in pubblico. Non c'è stata una vera rifondazione, una linea di confine fra il prima e il dopo, ma solo una lunga transizione mai dichiarata fino in fondo. E questa è l'opinione di Marco Imarizio sul Corriere della Sera. Ovviamente si può approfondire. Io, autonomista come Maroni, il sindaco di Bergamo, Gori, possibile candidato, il Carroccio fa solo propaganda, un'intervista che segnalo, e primarie Russo in tilt, di nuovo sempre il Corriere della Sera, i militanti del Movimento 5 Stelle temono gli hacker. E siamo arrivati allo spot e torniamo subito dopo con questa notizia sulle pensioni che farà incazzare molti. State ascoltando un programma offerto da Centro Software, l'ERP italiano già pronto per Industry 4.0. Mattino. Rieccoci, buongiorno. Allora ricordatevi 349-238-6666 per i vostri messaggi che mi accompagnano, e adesso entriamo nel campo dei soldi, il money. Niente lavoro, niente reddito, niente risorse. Davvero un gran bel futuro. Corriere, pagina 3, imperdibile per chi vuole davvero capire l'Italia, un'articolessa lunga di Enrico Marro, ma che ci spiega meglio di 100 altre ricerche perché il paese non rifiata malgrado la ripresina. Gli italiani non si accorgono della ripresa. Durante la crisi il reddito pro capite è sceso di 2.800 euro e i disoccupati sono quota 3 milioni. Ripartono i consumi, ma non la percezione della ricchezza. E se il PIL pro capite, dice Enrico Marro, era di 28.700 euro 10 anni fa, prima della crisi, nel 2016 è stato di 25.900 euro. Ogni italiano deve insomma ancora recuperare 2.800 euro per tornare ai livelli pre-crisi. Così sottolinea il centro studi Impresa Lavoro. È vero, spiega ancora Marro, è vero, nel 2016 c'è stato un miglioramento che continua anche quest'anno rispetto a quel 25.600 euro di PIL pro capite, ma si tratta di 300 euro, in media 25 euro al mese a testa, che non cambiano certo la vita delle persone. Si chiama BES, un nuovo acronimo, e purtroppo bisogna spiegarli. Benessere Equo Sostenibile l'ha inventato Giovannini, l'ex presidente del. E allora la conclusione di Marro. La ripresina è stata trainata dalle esportazioni più che dalla domanda interna. Ne hanno beneficiato soprattutto le aziende che producono per l'estero, che hanno goduto anche del petrolio a buon mercato, dei tassi di interesse minimi e del taglio dell'IRES e dell'IRAP. Ma la pressione fiscale azionata dallo Stato è leggermente scesa anche per le famiglie, soprattutto per i lavoratori dipendenti fra 8 e 26 mila euro di reddito, grazie al bonus. Però non basta. Allora avete capito, il beneficio è stato spesso divorato dalle tasse locali. Chi vuole saperne di più legga questo pezzo di Marro. Allora, l'articolo che vi preannunciavo, una storia da leggere, lunghissimo, ma ne leggo qualche estratto. Carlo Piano sulla Verità ci racconta che l'INPS sta mandando tante lettere in cui richiede indietro i soldi ai pensionati per aver sbagliato i calcoli. Quando Giulio ha aperto la raccomandata dell'INPS, 1° settembre scorso, non ci credeva. Ha dovuto mettere gli occhiali, leggerla, rileggerla una decina di volte. Poi, dal momento che ha già girato la boa degli 80 anni, ha pensato di farla vedere anche a suo figlio per maggiore sicurezza. Ma Giulio di Brescia non è rimbambito. L'istituto previdenziale gli stava chiedendo la restituzione, sentite, di 64.000 euro a 80 anni dopo l'accertamento in sede definitiva della pensione e dell'erogazione di maggiori somme non dovute dal 1 ottobre 2000 al 31 dicembre 2016. Cioè, gli chiedevano 16 anni di arretrati. Allora, quella di Giulio non è purtroppo una storia isolata. In questi giorni, scrive ancora Piano La Verità, migliaia di pensionati stanno ricevendo le lettere di tono estorsivo dall'istituto che ha lanciato la campagna di rastrellamento autunno-inverno. Le storie sono tante, da quella di Antonio di Benevento, malato di tumore, che si è visto chiedere indietro 60.000 euro perché la sua pensione di invalidità era eccessiva. Già, perché neppure i disabili al 100% vengono risparmiati dalla burocrazia italiana, che, meglio ribadirlo, non conosce pietà neppure quando sbaglia. E infatti, ad accompagnare la lettera c'era un MAV, il modulo per effettuare attraverso una banca il versamento. E insomma, tutte le missive hanno lo stesso contenuto, così riassumibile, sempre il pezzo di Piano La Verità. Scusate, ci siamo sbagliati, ridateci indietro le vostre pensioni entro 30 giorni! Le cifre pretese variano dai 700 euro fino appunto ai 64.000 rotti. Non c'è neppure differenza di censo, ricchi e poveri vengono colpiti ugualmente. E insomma, è un pezzo da leggere, ma è una notizia che un po' fa paura. Allora, la guerra delle manette, la guerra delle manette. Pagina 12, il fatto: era stato arrestato il sindaco di 5 Stelle ieri. Lo dico solo perché qui tutti dicono, ma come hai detto? Ecco qua. Patto fra mafia e politica, arrestato ex sindaco del PD. Pagina 12, Saul Caia e Antonio Massari sul fatto spiegano che c'è anche l'arrestato del PD. Invece Torino, esplode una polemica su Torino e l'ultimo, spenga la luce, la stampa Mattia Feltri, perché come sapete la sindaca Appendino ha rinunciato al G7. Allora, Virginia Raggi rinuncia alle Olimpiadi a Roma per evitare ruberie e sprechi, e lo stesso fa l'Appendino, scrive Mattia Feltri, prima pagina della stampa. Curioso, avevamo capito che le ruberie e gli sprechi sarebbero stati evitati grazie ai semplici al potere, col loro rigore legalitario e la loro sana economia di stampo domestico. Così come avevamo capito, scrive Mattia Feltri, che le manifestazioni di violenza sarebbero state sopite cancellando antiche politiche catastali. E invece no, i giovani volenterosi a 5 Stelle non affrontano i problemi, visto che poi non è così facile risolverli. Su questo un lungo articolo di Francesco Merlo sulla Repubblica, parte dalla prima pagina e gira a pagina 41 e ovviamente un racconto un po' più ampio, un po' più articolato, un racconto in cui che si chiude così. Corrado Alvaro paragonava Torino a San Pietroburgo, città razionale, piena di piazze d'armi, perfetta per un G7 perché ricca di prospettive, via Roma, via Po, il Castello, il Parco del Valentino, e dunque scenografica, con il rango di capitale anche a tavola perché i menù sono sofisticati e ci sono grandi vini, e poi le eccellenze industriali, i musei, il caffè, il cioccolato, le librerie antiquarie, le grandi boutique. Il vaffa al G7 e a tutte le occasioni nasconde e offende la città, e l'Appendino, che alla maniera di Schettino se la svigna, degrada se stessa, e Torino, che torna dunque piccola città con gli occhi chiusi a metà, come canta Ligabue a Correggio. E vabbè, è polemica, però nessuno ride, e quindi voglio girare pagina per un attimo e andare al Mediterraneo che avevamo dimenticato. Repubblica, pagina 15, Alessandra Ziniti. Libia, ripartono i barconi, subito una nuova tragedia. Annegati 100 migranti. Alla deriva per 5 giorni, dopo essere rimasti senza benzina, è il primo incidente che segue gli accordi con meno navi umanitarie. Dalle spiagge della Libia hanno ripreso a partire, purtroppo anche a morire. Un centinaio, dicono, i pochi superstiti, i migranti annegati dopo essere caduti o essersi buttati per disperazione da un vecchio barcone che sarebbe rimasto senza benzina alla deriva per 5 lunghi giorni nel tratto di mare di Fonte a Sabata, fino a qualche settimana fa presidiato dalla flotta, ormai più che dimezzata dalle navi umanitarie e ora invece sostanzialmente guarnita di soccorsi e lasciata al pattugliamento della Guardia Costiera Libica. Questo è lo scenario, Alessandra Ziniti, sulla Repubblica. È la prima tragedia del mare dal blocco della partenza, seguito agli accordi di Minniti. Di fronte a questa nuova catastrofe è più che mai urgente intervenire nel Mediterraneo, scrive SOS Mediterranee, ancora in acqua con la nave Aquarius, l'ultima superstite. Allora, questo per dire che non è mai facile risolvere i problemi. Torno al Sole 24 Ore perché c'è una notizia importante che riguarda la web tax. La web tax mette sotto tiro le attività, le opzioni di Bruxelles, tassazione sul fatturato, transazioni o servizi e pubblicità. Stiamo parlando di Pagina 3, Beda Romano, e ci racconta della lunga guerra con i colossi che non vogliono pagare come le altre imprese. Non è che se sei nel web non devi pagare. A pochi giorni dalla riunione dei 28 a Tallinn la prossima settimana, la Commissione europea ha presentato ieri qui a Bruxelles, racconta ancora Beda Romano, una comunicazione con la quale inquadrare il dibattito sul futuro della tassazione dell'industria digitale. L'iniziativa deve servire ai governi per prendere una decisione entro dicembre. Consapevole di quanto complessa sia la questione a livello europeo e sul piano mondiale, l'esecutivo comunitario propone tre opzioni da applicare nel breve periodo: imposta sul fatturato, ritenuta alla fonte, tassa sui servizi o sulla pubblicità e una base imponibile unica. Posso dirla un po' in maniera spiccia: fateli pagare, devono pagare come pagano tutti gli altri. Legge elettorale, la notizia del giorno in pochi istanti. Ebbene, c'è l'accordo, come ci racconta sul Messaggero Nino Bertoloni Meli e come ci raccontano tutti i giornali, ma il Corriere della Sera ci fa un focus particolare, e allora vado subito a questo patto, sono addirittura tre pagine. Ecco l'accordo, sì, di PD, Alleanza Popolare, Lega e Forza Italia, nuovo Rosatellum, il Rosatellum bis, io ho perso il conto, no, di Bersaniani e Movimento 5 Stelle, si punta a votarlo entro metà ottobre. Con il nuovo mix, spiega Martirano sul Corriere, che premia la quota proporzionale, Silvio Berlusconi viene garantita la tenuta di Forza Italia, mentre la Lega già sta contando i collegi uninominali che riuscirà a strappare al nord. Rosatellum, siamo disponibili a votarlo anche la prossima settimana, manda a dire adesso Matteo Salvini, soddisfatto, e prima era contro. A rimare contro la legge rimangono dunque i grillini, racconta Martirano, che verrebbero penalizzati su più fronti. Forza Italia e PD hanno fatto un inciucio per fermarci. Allora ve lo dico in sintesi, poi ne parleremo con Oscar fra cani e gatti. Questa legge secondo me non va bene per una cosa che è pari e uguale in tutte le ultime leggi. Ci sono soltanto i nominati. Traffico. Mattino. Qual è il problema? C'è una tizia che è finita in overdose, capito? Beh, non portarla qui. Guarda che non sto scherzando, cazzo. Non pensare di portare una ragazzina sballata a casa mia. Non ho scelta. È in overdose. Cazzo, tra poco ci lascia la pelle. Cazzo, questo non è un problema mio. Tu l'hai fatta sballare e ora lo risolvi tu, questo casino. E siamo arrivati alla mitragliata, ma volevo dare una luce particolare con questa citazione di Pulp Fiction alla notizia incredibile che io ho visto sul sito di Tiscali, con questa cosa, questo tentativo di omicidio che non ha precedenti, l'omicidio elettorale. Pensate, era sotto minaccia il nipote di Claudio Scajola, Marco, e il committente del killer, in una banda tipo Soliti Ignoti, era il secondo arrivato in lista dietro di lui, che vedendosi scavalcato ha proposto a un killer: mettigli una busta di droga in macchina, gambizzalo oppure sparali. Ma veramente neanche Tarantino. C'è una bellissima frase di Milan Kundera che oggi torna attuale: se tutti gli uomini avessero la possibilità di uccidere clandestinamente, l'umanità sparirebbe in qualche minuto. Sparagli in faccia! La mitra- Mitragliata, Libero, pagina 10. Boy George, ve lo ricordate? Fa un selfie con Berlusconi e dice: Silvio è iconico. La star degli anni 80 fa questa foto sorridente. Lui e Berlusconi, 100 kg di cerone in due, ma va bene lo stesso. Ricordate Rebecca la prima moglie? Beh, siamo arrivati alla quarta, la quarta di Schröder. E voi dite, ma come, leggi Cronaca Rosa Telese? Sì, sì, il Corriere della Sera, pagina 10, perché questa è l'ultima tegola sulla già sfortunata campagna dell'SPD. È Taino, Danilo Taino, sul Corriere della Sera, che spiega perché questa rivelazione di Doris Schröder-Koff mette nei guai l'intero socialdemocrazia tedesca. Fatti loro, naturalmente, però l'infedeltà dell'uomo politico a 73 anni continua a voler proiettare un'immagine da maschio alfa e mette nei guai, diventa una questione mediatica rilevante a 3 giorni dal voto, un'altra piccola cattiva notizia per la SPD, non perché il partito sia bacchettone, ma perché fa apparire il mondo dei dirigenti socialdemocratici molto slegati dall'ideale patria e famiglia dei tedeschi. Sempre Corriere della Sera, Paloma Picasso, pagina 25, era venuta per una mostra, gli hanno sbottuto i bagagli e la cosa bellissima dice: no, per fortuna mi hanno aiutato a rivestirmi gli amici. Ma chi sono gli amici? Armani e Valentino, che gli hanno mandato dei set di vestiti. Beh, allora voglio smarrire il bagaglio anche io. Fatto, pagina 9, dopo 30 anni la giustizia che è lenta, Vittorio Emanuele di Savoia condannato, pensate, per la famosa fucilata in Corsica. Repubblica, una storia incredibile, la prima sposa single, ha voluto l'abito bianco, la torta di nozze, gli invitati e anche il viaggio di nozze, ma vale, dai! Conversioni, il fatto a pagina 9 e Repubblica a pagina 36, e si torna al soldato Ryanair, per la prima volta, pensate, Olli richiede scusa e annuncia rimborsi. Abbiamo messo il saio, dice, però i voli continuano a essere cancellati. Feltri interviene su Crozza, che lo dipinge come un ubriacone che dice sempre CZ. Cioè, vabbè, avete capito. E risponde con un editoriale, devo dire, a pagina 4, un po' sulle uova. Cosa penso di Crozza che mi imita in TV? Un po' come si dice a Roma, non so come sia nel Lombardo-Veneto, a bozza. Mi è capitato purtroppo di mandare a far culo qualche conduttore o qualche ospite, magari dicendo non me ne frega niente dei migranti e abusando del sostantivo cazzo, ma insomma non è a misura attribuitami dal comico. Non importa, accetto. In omaggio al diritto di scherzare. Avete visto? Sta un po'. E voglio chiudere con la incredibile notizia di Orietta Berti, che riesce a vincere una causa con il fisco. È rimasto stupito anche Gramellini sulla prima pagina del Corriere della Sera, al punto da scrivere una canzonetta a pezzo, un caffè dei suoi, finché la tassa va. Orietta Berti ha ottenuto la restituzione di 20 anni di versamenti IRAP, realizzando il sogno di tutti gli italiani che considerano l'imposta regionale sulle attività produttive il loro incubo portati. E qui ci vorrebbe un Giannino che dice tasse, tasse, tasse. È riuscita a dimostrare che intorno a lei non lavorava una piccola azienda, ma soltanto dei collaboratori occasionali. La Berti non sarà un'impresa, ma di sicuro ne ha realizzata una. Dietro quell'aria pacioccona, stranita, da sorella ideale di Forrest Gump, si nasconde un donnino pragmatico e tignoso, capace di ingaggiare e vincere un combattimento di suino contro il mostro multiforme del fisco italiano, che l'ha battuta in primo grado, ribattuta in appello, ma che ha finito per soccombere in Cassazione. La morale ai Gramellini: in un'epoca di arrabbiati e lamentosi cronici, questa maestra del tortellino zen, produttrice instancabile di storie a lieto fine, è la prova vivente che un approccio sereno e concreto ai problemi costituisce ancora il modo migliore per risolverli. Alla donna che non è un'impresa verrebbe da affidare qualsiasi impresa. Orietta Berti che mette d'accordo Madrid e la Catalogna, Orietta Berti che trasforma Kim in pacifista, Trump in ambientalista, la Merkel in spendacciona e Macron in una persona sincera. Questo era Gramellini. Mi resta da segnalarvi alcune cose importanti. La Catalogna, Ecco, sulla Catalogna, questa è una cosa seria, c'è un'intervista di Savaterri, il filosofo, che sul Corriere della Sera, mancavano un po' ieri, difende le ragioni del centralismo. E poi c'è un'intervista sul Fatto del governatore Zaia che dice: noi siamo come la Catalogna, siamo come Barcellona, e questo sicuramente ci lascia pensare, data la coincidenza con il referendum che si terrà in Lombardia e Veneto. Allora ci stiamo avvicinando alla pagina dei Cani e Gatti, al momento di Oscar Giannino. Questi sono tutti i grandi temi divisivi e ci vediamo fra poco. GR.